mare tuo, chi dal cor ti cancellò, chi dal cor ti cancellò, di Provenza il mare il sol, al natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol, o rammenta pur male tuoi, chi vi gioia se brillò, e che fa che cola sol, tu per splendere ancora può, e che Dio mi vidò.